Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana, settimana in cui, come già molti di voi sanno, Radio 24 con la maggior parte dei suoi programmi è in diretta dal padiglione del Cibus qui all'Expo, quindi a Milano, padiglione dedicato all'industria e al peso anche dell'industria alimentare italiana, non solo tutto l'Expo dedicato all'alimentazione, questo lo sanno anche i sassi. Qui però c'è l'eccellenza dell'industria alimentare italiana, quella che poi va a conquistarsi quote di mercato e quando glielo fanno fare, per esempio nel caso russo in questo momento difficile. Devo dire che avremmo voluto parlare anche di notizie positive e lo faremo, perché i dati che arrivano dall'industria alimentare e anche da questa Expo sono positivi. È chiaro che con la giornata di oggi parleremo anche e soprattutto di Grecia, la gelata arrivata venerdì sera e poi su tutti i giornali nel fine settimana. E ancora, per quello che riguarda gli ultimi aggiornamenti, adesso ve li darò, faccio notare che le borse, dopo un tentativo di recupero molto timido, hanno ripreso sostanzialmente a perdere quello che perdevano da inizio seduta, meno 4,51% in questo momento il FTSE MIB, Francoforte meno 3%, l'America in realtà perde molto meno, ma non è coinvolta con la vicenda greca, anche se tensione ne notiamo e poi arriveremo a parlarne anche col presidente di Federalimentare. Tensioni anche, poco fa è uscita un'agenzia della Coldiretti sul prezzo del grano, è corsa all'accaparamento delle materie prime alimentari. A mio avviso c'è anche molta speculazione sulla Grecia, ma questo era immaginabile, lo diciamo da mesi interi. Per quello che riguarda l'andamento della borsa, al di là del calo del 4,56%, oggi è veramente difficile trovare un titolo positivo tra quelli a maggiore capitalizzazione, infatti non c'è. Il titolo che perde meno è World Duty Free, meno 0,30%, e Ansaldo meno 0,40%, mentre saluto tutto il pubblico qui all'Expo, al padiglione Cibus, grazie per reggere la diretta all'esterno senza i condizionatori che abbiamo qua all'interno. Il caldo è oggettivamente pesante ed è solo l'inizio da quello che leggiamo come previsioni meteo. Dicevo, i titoli: Monte dei Paschi meno 9,43%, UbiBanca meno 7,30%, Mediolanum meno 7%, UniCredit meno 6,90%, Pop Milano meno 6,90%, Mediobanca meno 6,20%, Banco Popolare meno 5,70%, vado solo sui bancari che sono come impresumibile i più colpiti, meno 5,60% Intesa San Paolo, meno 5,50% la Popolare Emilia Romagna. Diciamo che l'ha presa bene il mercato, no? Questo referendum e il blocco di ogni trattativa. L'avevamo detto, arriveremo a un'analisi, quindi non voglio anticiparla. Questa volta c'è una grossa responsabilità anche del governo greco, e questo è chiaro anche ai meno avvezzi al tema, che però la reazione dei mercati sarebbe stata brutta, lo diciamo da mesi, ed era il motivo per cui si diceva attenzione, non arriviamo a impiccarci per la Grecia, che vale meno del 2% del PIL europeo. Dopodiché, ripeto, venerdì a sorpresa il ricorso al referendum ha lasciato tutti gli osservatori, devo dire, abbastanza basiti. Vedremo se vi sarà modo per rinunciare a questo referendum. Ci sono ancora voci che ipotizzano che poi il referendum, si possa tornare indietro dal referendum, che si possa arrivare a un accordo veramente in extremis. Domani scade infatti il termine ultimo per il pagamento della rata che la Grecia deve. In realtà sono tre rate, perché vi ricorderete che a inizio giugno scade la prima. La Grecia decise di pagare tutto in una volta, ne ha la facoltà come tutti i paesi che aderiscono al Fondo Monetario Internazionale, e infatti tutte e tre le tranche scadono domani. Il nostro spread come va? Dopo una prima fiammata che l'aveva portato di nuovo a 200 punti di differenza con quello tedesco come rendimento del nostro BTP a 10 anni, è poi sceso a 150, oscilla tra 150 e 160. Il ministro Padoan ha rassicurato, non vi è nessun rischio per il nostro debito pubblico e la Banca Centrale Europea ha le armi contro la speculazione. E gli operatori si dicono fiduciosi, ma in realtà non quelli di borsa, perché la Grecia non è ancora fuori, vi possono essere possibili mosse per evitare l'uscita dall'euro. Non c'è panico, dicono varie sale operative. Non ci sarà panico, però adesso l'indice è arrivato a perdere di nuovo il 4,60, Monte dei Paschi meno 9,40%. Ripeto, domani è veramente la scadenza ultima e poi vedremo che cosa capiterà. Parleremo ampiamente di Grecia dai mercati in poi. Prima di tutto manteniamo fede comunque all'appuntamento che ci ha portato qui a raccontare l'industria alimentare italiana, che vuol dire 132 miliardi di euro di giro d'affari, è il secondo settore produttivo dopo la meccanica in questo paese e sono 58.000 le aziende che operano nel settore agroalimentare italiano, in cui rientra anche il vitivinicolo, ma non solo, e 385.000 addetti con un export che vale 27 miliardi di euro, praticamente è il 20% del fatturato, ancora poco rispetto alla Germania e alla Francia, che arrivano al 33% la Germania e al 26% la Francia. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi per chi si dovesse trovare all'Expo, Focus Economia termina alle 18.30, poi come sempre vi sarà la Zanzara, oggi in diretta dall'Expo qui al padiglione del Cibus. Per dare un'idea, siamo vicini alla Russia, per chi conosce il decumano, Russia, Mauritania e Giordania, Palestina. Sperem bene, le notizie in breve. C'è un altro paese, lo dico più per alleggerire una giornata pesantissima, che ha lanciato l'allarme e non potrà ripagare il debito, non è in questo caso la Grecia, è Puerto Rico, non ci sono altre opzioni, ha affermato il governatore di Puerto Rico, vabbè, lo citiamo solo perché oggi si parla molto di Grecia e tra l'altro vale la pena ricordare come il Fondo Monetario Internazionale, non so se abbia più un effetto, un'efficacia come colore o anche come contenuto, il Fondo Monetario Internazionale ha detto no alla richiesta di alleggerire il debito nei confronti del Nepal colpito dal terremoto. La richiesta arrivava da 75 organizzazioni internazionali. Tra l'altro il Nepal ha un'esposizione veramente modesta, 55 milioni di dollari. Però, secondo il Fondo Monetario, il sisma non ha provocato danni di una gravità tale da giustificare un intervento sul debito. Faccio notare al Fondo Monetario, col massimo rispetto, che il terremoto in Nepal ha causato 8.600 morti e danni stimati tra i 5 e i 10 miliardi di dollari, che sono un terzo dell'economia del paese. Immaginate se un terremoto in Italia avesse distrutto un terzo del nostro PIL. E comunque il Fondo Monetario intransigente sul Nepal oltre che sulla Grecia. Volete sapere se è confermato? Sì, le banche greche resteranno chiuse, anche i bancomat, fino a lunedì prossimo, quindi se verrà confermato il referendum, fino all'esito del referendum. Poi bisognerà capire che cosa succederà con questo referendum e se riapriranno martedì, perché dovesse essere bocciato ogni tentativo di accordo, non so in questo momento dirvi se le banche greche potrebbero riaprire martedì. Quindi bancomat, in realtà i bancomat non sono chiusi, c'è un limite al prelievo nei bancomat, una forte restrizione, chiuse le banche come sportelli e chiusa la borsa di Atene. Alcuni di voi mi chiedono quanto ammonti la rata che scade domani. Ammonta 1.600.000.000 come risultato di tre tranche che la Grecia doveva restituire, ripeto, a giugno e a questo punto aveva deciso di pagare tutto in una volta al 30 di giugno. Poi iniziano a piovere sondaggi dalla Grecia, secondo cui il 57% degli intervistati ha detto che la Grecia dovrebbe fare un accordo con i partner europei e non uscire dall'euro, non uscire dall'area europea, e solo il 29% preferirebbe una rottura. I trasporti pubblici da Atene saranno gratuiti fino a lunedì 6 luglio, questo lo ha deciso Tsipras. Poi lo ha annunciato il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Christos Spiritsis, ha osservato che il costo stimato dell'iniziativa sarà di circa 4 milioni di euro. Nel frattempo le fonti europee fanno sapere che dopo il 30 giugno, quindi se non pagherà la rata domani, non ci sarà più un programma e quindi nemmeno strumenti finanziari per sostenere la Grecia. Subito dopo però la Grecia diventerà eleggibile per un nuovo programma finanziato dal Fondo Salva Stati ESM, che però andrà negoziato e non da capo, non con una pagina bianca, ma con una serie di riforme che sono quelle di cui si è discusso fino a venerdì scorso. E poi il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, che ha detto il governo dica la verità ai suoi cittadini e dica, spieghi qual è la posta in gioco. La porta dell'Europa resta aperta, ma se vincessero i no vorrebbe dire che praticamente dire di no all'Europa. Ancora, non mi sento tradito, anzi ha detto Juncker, mi sento tradito. O penso di aver fatto il possibile. Questo non è un poker, se si perde o si vince tutti, su questo devo dire che non ci sono dubbi, che poi il fallimento sarebbe un fallimento collettivo sia per l'Europa sia per la Grecia. Nel nostro piano non c'era una stupida austerità, non abbiamo mai proposto tagli a pensioni e salari. Appello a votare sì anche dal presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. Angela Merkel ha parlato oggi di nuovo di Grecia e ha detto: se dopo il referendum il governo greco chiedesse di trattare, non rifiuteremo le trattative. Poi ha lodato Schäuble, instancabile il ministro delle finanze di Angela Merkel nella ricerca di una soluzione. Grazie per il lavoro fatto, bene che sia ministro delle finanze. Ancora, ha aggiunto Angela Merkel, attenzione, non c'è alcun fondamento giuridico per ottenere un finanziamento ponte fra il programma in scadenza domani e un eventuale nuovo programma. Allora, come immaginabile, alla situazione, all'aggravarsi della crisi greca, al precipitare della crisi greca, sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alberto Orioli. La cosa più saggia alla fine l'ha detta Juncker: non è una partita di poker, qui si vince o si perde tutti insieme. Questo in effetti dovrebbe essere lo spirito europeo, che non c'è stato mai in questa estenuante trattativa tra l'Europa e la Grecia. Come previsto, lo scossone sui mercati invece c'è stato, soprattutto in fase di avvio. Poi è scattato lo scudo degli acquisti straordinari della BCE e le cose non sono peggiorate. Le borse quindi perdono sui 3-4 punti, lo spread, che era schizzato in avvio vicino alla quota psicologica di 200 punti, è tornato intorno a 154. L'avventatezza della leadership greca e la debolezza della guida europea attuale hanno prodotto il disastro che oggi vediamo tutti. È chiaro che non si può continuare a pensare di imporre ricette libresche da fondo monetario a un paese che è guidato da trotskisti e neonazionalisti, ma è altrettanto chiaro che Atene non può pensare di forzare i partner europei pensando di creare una piccola Cuba nel cuore del vecchio continente. La Grecia quindi adesso ha le banche chiuse per una settimana, i prelievi razionati a 60 euro al giorno, la corsa ai benzinai e supermercati per l'accaparramento, gli agenti di polizia richiamati dalle ferie. La borsa di Atene è chiusa come le banche, ma per capire quale sia l'umore dei mercati sulla Grecia basta vedere l'andamento del titolo ETF quotato al Nasdaq di New York e legato ai listini di Atene. Ebbene, addirittura in preapertura ha perso il 17% prima ancora di cominciare. Ora i mercati saranno volatili ancora per una settimana, poi il 6 luglio, il giorno dopo la consultazione popolare greca, si capirà quale diventerà davvero il destino di questo confronto. La partita purtroppo, più che finanziaria, per una realtà economica che tra l'altro in Europa vale meno dell'1% del PIL continentale, è tutta politica, di una politica alta che i figuranti, i narcisisti e dilettanti di questo negoziato non sanno neanche dove si può imparare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, arriveremo di nuovo, vedo moltissimi messaggi sulla Grecia come immaginabile, devo dire che da quello che abbiamo notato anche dalle domande che abbiamo ricevuto arrivando qui all'Expo, tutti sono consapevoli che si stia rischiando tantissimo. No, non ho perso il mio classico aplomb, dico semplicemente che, ma ne parleremo dopo, siamo arrivati in una situazione da vicolo cieco quasi per colpe da ambedue le parti, adesso è brutto dirlo adesso, è 5 anni che ci trastulliamo su questo tema della Grecia, però restiamo sulle notizie anche positive. Siamo all'Expo, siamo ospiti di Cibus, che è il grande padiglione dell'industria alimentare italiana, e vorrei iniziare a parlare con chi rappresenta il Cibus. Il Cibus è sostanzialmente il grande evento che c'è ogni anno a Parma, la Fiera di Parma, la grande vetrina, la grande fiera dedicata all'industria alimentare italiana. Dentro il Cibus c'è anche Federalimentare, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta l'industria alimentare italiana. Siamo con il presidente qui a sudare, non per la troppa fatica ma per un caldo che sta aumentando di minuto in minuto e non so cosa resterà di noi. Grazie a Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, intanto il vostro padiglione, perché abbiamo molto parlato giustamente dei padiglioni degli altri paesi, del padiglione zero di Rampello, che è un'opera bellissima, abbiamo raccontato anche delle filiere, però insomma, non dobbiamo dimenticarci che i numeri che citavo prima, 132 miliardi di euro di fatturato, 58.000 imprese, 27 miliardi di export, sono numeri da industria. E poi ci arriveremo che quando on dice industria e ci associa il termine alimentare, pensa sempre che si vada a deperire la qualità rispetto ai ricavi. Intanto, che cosa avete raccontato in questo padiglione? Perché voglio dire, c'è l'eccellenza dell'industria alimentare italiana, ma non è presentata solo così per il prodotto finale. Prego. È una grande vetrina espositiva, come dicevi, dell'eccellenza dell'industria alimentare italiana, un padiglione corporate, cioè un padiglione in cui le aziende partecipano direttamente, raccontano la loro storia, raccontano i loro valori, raccontano come hanno fatto a prendere delle tradizioni, dei localismi e portarli in giro per il mondo dandogli il valore aggiunto di patrimonio universale. Sono oltre 400 aziende italiane che nei diversi settori rappresentati rappresentano i leader, le eccellenze, con oltre 1000 marchi che appunto hanno fatto grande il food and beverage italiano, il giro per il mondo, e che qui si raccontano alla gente comune, si raccontano ai grandi buyer che vengono da tutte le parti del mondo. Allora, ripeto agli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, abbiate pazienza sulla Grecia, non possiamo fare tutta la puntata sulla Grecia, qualcuno mi sta scrivendo che tutti i vostri ospiti escludevano, che lavoro fate? Guardate che abbiamo detto avremo di nuovo Adriana Ceretelli col suo barometro che oggi butterà tempesta, però abbiamo fatto presente moltissime volte che si stava arrivando all'ultimo minuto, che la corda veniva tirata, è come una coppia che rischia di arrivare alla separazione, nessuno vuole cedere e deve cercare di arrivare a un certo momento a un punto di caduta, in senso a un punto comune. L'abbiamo detto moltissime volte che il governo greco avrebbe annunciato venerdì sera il ricorso al referendum sulle proposte europee. Questo oggettivamente non si era mai sentito ed è secondo me la responsabilità politica più grave che ha Tsipras, non perché il referendum sia sbagliato, ma non può introdurre un elemento alla fine delle trattative, ripetendo il caso e l'esempio di marito e moglie che litigano, con responsabilità da parte di entrambi. Non è che all'ultimo minuto, quando si sta per chiudere un accordo e un modo per riappacificarsi, metti sul piatto e cali un asso del genere che fa riaprire tutta la discussione, perché obiettivamente uno ti può chiedere perché non hai parlato prima del referendum, non avremmo perso tutto questo tempo. Adesso sapete che abbiamo sempre difeso la posizione greca quando c'era da difenderla, criticato la linea miope della Germania, però stavolta no. Torniamo al settore agroalimentare e alle domande che stanno arrivando, perché vedo che un po' di difficoltà a capire che si possa tenere assieme l'industria, il termine industria, la dimensione industriale con la qualità italiana dell'agroalimentare, c'è anche nelle domande degli ascoltatori. Presidente Scordamaglia, se uno visita questo padiglione capisce, però è difficile da descriverlo in radio, quanto bello sia e che ricerca, che innovazione, che attenzione alle materie prime c'è in chi poi produce su dimensioni industriali. Vale, se vuole ricordarlo, per le varie categorie merceologiche che qui sono presenti, dal lattiero caseario ai salumi, alla pasta, cioè la ricerca, ma la pasta, c'è una ricerca altissima anche nella produzione di pasta, nella produzione di passata di pomodoro, pensate al lavoro che sta facendo Mutti, ma non voglio citare solo lui, se no vengo poi bacchettato. Obiettivamente però la sensazione che abbiamo, forse per un eccesso di retorica da slow food, Carlin Petrini, slow food vanno benissimo, Italy va benissimo, però attenzione, se tu poi vuoi andare sulle grandi filiere della distribuzione, se tu vuoi andare sui mercati, devi fare massa critica, devi avere dimensioni industriali. Noi questa difficoltà a fare capire che si possa tenere insieme qualità del Made in Italy con approccio industriale ce l'abbiamo, ci aiuti lei? È esattamente così, questo è il paese dei conflitti ideologici in cui si pensa che Petrini o industria sono due cose antitetiche, sono due parti dello stesso sistema. Se noi siamo superiori a qualsiasi altro al mondo è perché l'industria italiana ha preso le tradizioni antiche, i localismi, la sapienza di trasformazione, ma con ricerca, che appunto veniva ricordato, tecnologia avanzata, investimenti in sicurezza, ha raggiunto dimensioni tali da portarli a 1.200.000.000 di consumatori al mondo, perché questo è l'ultimo dato di persone che a livello mondiale almeno sporadicamente vengono a contatto con prodotti italiani. Per farlo devi avere dimensioni, devi avere spalle grosse, devi avere capacità logistica distributiva nei mercati in cui arrivi, e una volta che sei grande, allora sì, servi anche alle tante piccole e medie imprese che attraino, ti vengono dietro. Ecco, tra l'altro le dimensioni in questo caso, allora, io sono sempre dell'idea, proprio per non essere ideologici, Guelfi o Ghibellini, che possa coesistere. Possono coesistere da un lato i presidi per quello che riguarda l'attività svolta da Slow Food, i presidi del territorio di prodotti che altrimenti rischiavano di scomparire perché non così appetibili dalla grande distribuzione, con un'industria alimentare italiana che si fa notare rispetto alle tedesche e ad altre per la qualità di quello che produce, che poi ha anche prezzi che possono competere, ma per la qualità. Così come Oscar Farinetti, il nostro ospite più volte, ha avuto un'idea geniale nel prendere i piccoli produttori che non avevano una vetrina, non avevano le dimensioni per arrivare in certi mercati, e fornirgli la vetrina che si chiama Italy. Ma allo stesso modo, se tu vuoi stare sul banco dei salumi, dei formaggi, dei prodotti agroalimentari delle grandi catene internazionali, devi esserci, altrimenti è solo Italian sounding, cioè il cibo che sembra italiano ma non lo è. Ecco, possiamo cercare di capire qual è e come si fa a tenere assieme le due cose, secondo me? Abbiamo fatto un esempio pratico. Italy è una grandissima, fantastica vetrina. Italy però non arriva a fatturare neanche 200 milioni di euro. L'esportazione dobbiamo portarla a 50 miliardi in pochissimi anni. Quindi è chiaro che la vetrina la devi usare. È chiaro che, faccio un esempio, l'aceto balsamico tradizionale di Modena, che costa oltre 1000 euro al litro, è un prodotto fantastico per tirare su l'immagine. Poi c'è l'IGP industriale di grandissimo valore che viene esportato in 140 paesi e che fa sì numero, presenza, posti di lavoro. Le sfide si vincono appunto utilizzando le due componenti, e l'Italia ce la fa e lo dimostra che ce la faccia, perché se confrontiamo l'industria italiana alimentare con quella tedesca, se i tedeschi partono dallo stesso materiale biologico, da del latte, della carne suina che costa 2, arrivano a un valore, che siano i wurstel o un altro formaggio che costa 4, l'industria italiana parte dallo stesso prodotto biologico, latte o carne suina, ma arriva al culatello di Zibello o al parmigiano reggiano che da 2 vale 10. Quindi il valore aggiunto è da un lato tradizione, ricerca e sapienza, e dall'altra innovazione e tecnologia che le dimensioni consentono. Ecco, personalmente a me, insomma, e a chi con me oggi ha visitato il vostro padiglione, quello che ha sorpreso è vedere, devo dire, la mostra è molto bella, molto ben organizzata, e anche insomma si guarda e si visita con piacere, però ha sorpreso capire quanta ricerca ci sia dietro l'industria alimentare. Perché uno può pensare, vabbè, ma tanto per fare un formaggio, un Asiago, ci sono tutti i produttori di formaggio, tutti i grandi nomi, non ne voglio fare per non far torto a nessuno, o per fare, ripetevo prima, la pasta, una pasta di pomodoro, prendi la materia prima buona, se la materia prima è buona il gioco è fatto. In realtà c'è una ricerca spaventosa dietro. La ricerca è enorme, su 132 miliardi di euro, oltre il 2,5% è ufficialmente impiegato ricerca, ma oltre a quella che viene così quantizzata, ogni giorno la funzione e il ruolo degli imprenditori italiani è di inventare qualcosa di nuovo, di innovare processo e prodotto. I processi per continuare a fare qualità ma in maniera sempre più efficiente, I prodotti perché è vero che va rispettata la tradizione, ma i gusti e le esigenze del consumatore cambiano. A titolo di esempio, l'industria alimentare negli ultimi 5 anni ha riformulato 4.000 prodotti, cioè ha modificato la composizione di alcuni parametri nutrizionali, riducendo il contenuto di nutrienti che oggi nella dieta sono in eccesso, sale, zucchero, eccetera. Quindi la tradizione è importante, ma l'innovazione e la ricerca deve essere fatta ogni giorno. Un ultimo punto riguarda invece la necessità di essere in certi paesi, o meglio, il fatto che tu in certi paesi ci puoi essere solo se hai una grossa struttura, cioè se tu vai, hai, è brutto dirlo, ma in questo caso le dimensioni sono importanti, ripeto, la nicchia ci può stare accanto, ma poi devi fornire alla GDO anche i volumi. Lei ha incontrato recentemente il presidente russo Putin proprio qui all'Expo, nella visita che ha fatto, l'incontro con Matteo Renzi. Assieme a lei c'erano anche il fiorfiore dell'industria italiana in Russia, mi riferisco a Finmeccanica, se non ricordo male, a Leni, all'Enel, e forse ne dimentico qualcuno. Ecco, siccome il danno che sta facendo l'embargo russo come risposta a quello europeo, confermato, ricordo a tutti, non più tardi di una settimana fa sostanzialmente, quando la Russia ha detto perfetto, visto che voi avete esteso il vostro embargo fino a gennaio, anche prolungheremo le misure antisanzioni fino al 2016, lo scorso 25 giugno. Che impressione ha ricevuto da Putin? Allora, aspetto positivo, aspetto negativo. L'aspetto positivo è che il presidente Putin, in maniera appunto ristretta ma molto diretta, in presenza dei settori che lei diceva, dal meccanico pesante, energia, petrolio e costruzioni, e appunto io come l'alimentare, dice attenzione, perché se non cambiate approccio, su 4 su 5 di voi io posso sempre rivolgermi ai cinesi. Voleva dire che sull'agroalimentare dai cinesi non ci va sicuramente. Peccato, aspetto negativo, che l'unico rappresentante italiano in commissione abbia qualche mese fa, ci abbia gentilmente suggerito di cercarci un mercato alternativo alla Russia. Il mercato alternativo alla Russia non esiste. È bene che l'Europa se ne faccia una ragione, se non è capace si approcci bilateralmente il problema. Ma chi è il rappresentante italiano? Ce ne abbiamo solo ed è femmina. Ah, lei si riferisce alla Commissione. Alla Commissione Europea, sì. a Lady Pesce Mogherini. Non l'ho detto. No, vabbè, ma noi una critica, ma non tanto a Federica Mogherini, al ruolo di Lady Pesce, che si chiami Ashton, che si chiama Mogherini, l'abbiamo già fatta in tempi non sospetti, e adesso viene facile la battuta, ma facciamo una campagna del tutto autonoma per la candidatura di De Castro a commissario europeo all'agricoltura, che era appoggiato da tutto il mondo dell'agricoltura italiano. Si può avere l'ingenuità di pensare che si faccia meno del mercato russo, punto. Bene, qui mi sembra molto netto il suo giudizio sul mercato russo. Allora, nel frattempo vedo, adesso arriviamo anche al resto, vedo parecchi messaggi su quanto la borsa ha bruciato. Mi dica in un'ultima battuta, il commissario unico all'Expo Giuseppe Sala ieri ha detto che le sensazioni sono molto positive anche su luglio. È ovvio, è come chiedere all'oste se il vino è buono. La vostra esperienza con l'Expo fino ad adesso? Superiore a qualsiasi aspettativa, perché abbiamo avuto centinaia e centinaia di buyer da tutto il mondo che ci vengono a cercare i nostri prodotti, a capire finalmente il valore aggiunto del Real Italian, ma anche entusiasmo, stimolo e orgoglio, perché grandissime delegazioni, lei ha citato Putin, ma ci sono stati i cinesi, ci sono stati gli americani, eccetera, ci guardano per la prima volta con un'ammirazione straordinaria e capiscono che la nostra filiera agroalimentare è insostituibile e che lo è il nostro modello. Un'ultima domanda, ha ragione l'ascoltatore, questa polemica che è scoppiata ieri con la possibilità di produrre le mozzarelle non di latte, con il latte in polvere, è venuto fuori. La Commissione Europea ci ha diffidato da bloccare la possibilità di produrre i formaggi senza latte. Secondo me l'Italia fa bene a bloccare una produzione di formaggi che solo ricordano il formaggio. La vostra posizione? L'Italia deve capire che facciamo parte dell'Europa e che tutte le sacrosanti battaglie vanno fatte e vinte in Europa. Chi pensa che con scorciatoie nazionali noi riusciamo ad affermare i nostri principi, non ci riusciamo. Se siamo convinti di una cosa, andiamo a Bruxelles, portiamo le battaglie e vinciamole, ma ripeto, non pensiamo che con provvedimenti nazionali i problemi si risolvano, vengono poi di nuovo al pettine e quindi non riusciamo ad affrontarli. Se abbiamo del valore aggiunto in quello che facciamo, Bruxelles deve capire quello che vale, ma la dobbiamo gestire lì, non a scorciatoie nazionali. E quindi l'errore è stato pensare che una legge nazionale ci tutelasse a livello comunitario. Siamo forse alla decima legge sul settore alimentare dove si pensa che norme nazionali superino quelle comunitarie. Più che legittimo, ma battaglie vanno vinte lì. Grazie al presidente del Federalimentare Luigi Scodamagna. Allora, peggio di ogni previsione la chiusura, -5,20%, Milano, -10,20% Monte dei Paschi. Molti ascoltatori scrivono: con quello che ha bruciato oggi in borsa d'Europa è molto più di tutto il debito greco. L'abbiamo sempre detto, abbiate pazienza, è brutto citarsi, ma già nel 2010 i mercati europei bruciarono 1.600 miliardi, quando, vi ricordate quando dalla la Grecia poi uscì dall'euro, disse la Merkel, e partì tutta la corsa dopo la Grecia, il Portogallo, dopo il Portogallo, la Spagna, dopo la Spagna e l'Italia, bruciarono per questa incapacità di gestire la vicenda greca 1.600 miliardi, quando il debito greco era di 300 miliardi. E oggi ha ragione chi dice, in una giornata le borse europee dell'area euro hanno bruciato, poi magari recupereranno, più soldi di quanto sia l'ammontare complessivo di tutto il debito greco. Questa è la follia di essere arrivati in questo cul-de-sac. Come si dice, quando sei in un cul-de-sac, per uscirne ti ci vuole un sac de cul. Meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Iniziamo adesso la lunga pagina, meno male che comunque abbiamo parlato anche di industria agroalimentare, ve lo dico molto sinceramente, perché sennò oggi la giornata era di quelle, altro che gufo, il gufo all'Expo è sudato. Allora, non ho detto che regalando 300 miliardi alla Grecia ci saremmo sistemati, ho detto semplicemente che una crisi che valeva 330 miliardi allora e che li vale tuttora, perché tale è l'esposizione della Grecia nei confronti dei creditori, solo che prima erano le banche francesi, tedesche e in piccola parte italiane, adesso sono gli stati. Quindi il grande esito di questa gestione è di trasferire i crediti dal settore privato, che aveva prestato soldi alla Grecia, al settore pubblico. È vero che c'è stato del CAT e ci hanno rimesso anche le banche, ma in questo momento sono tutti i soldi che la Grecia deve agli stati, non più le singole banche. Ma dicevo che per questi 330 miliardi a suo tempo la borsa perse di capitalizzazione in Europa nell'area euro 1.600 miliardi, e oggi, giudicare dalla giornata, ancora non ho il dato, la batosta è stata ben più cara del debito greco. Allora, il dato finale per quello che riguarda Milano, meno 5,17%, Francoforte meno 3,40%, Parigi meno 3,80%, e già qua iniziamo a vedere le differenze, nel senso che Milano perde più, quasi 2 punti percentuali, più delle borse francesi e tedesche, per via dei titoli bancari e per un ragionamento che, insomma, è inutile girarci attorno. Vede l'Italia come eventualmente, in maniera molto remota, paese a rischio se tutta la gestione greca dovesse esplodere. Non a caso il nostro spread è arrivato fino a 200 punti, poi è ridisceso a 153. Ci sono dichiarazioni rassicuranti, ma non so che valore dare, nel senso che vari sondaggi di sale operative nella City di Londra, di operatori, dicono attenzione, non è detta l'ultima parola, è inutile panic selling, sarà pure inutile, però quello è quello che è successo oggi in borsa. Monte dei Paschi ha perso il 10,20%, UbiBanca l'8%, il Pop Milano meno 7,91%, UniCredit meno 7%, Banca Popolare meno 6,70%, Mediobanca meno 6,50%, Pop Emilia Romagna meno 6,50%, Intesa San Paolo meno 6,1%, Generali meno 5%, tutto sulla base della Grecia. Eleonora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Io archivierei, tra virgolette, così poi abbiamo altri ospiti per parlarne, insomma, il calo delle banche, no? Hanno in pancia portafogli, hanno in pancia molti titoli di Stato italiani e il mercato va a vendere. Certo, infatti tu hai citato MPS, ha perso il 10%, ha sicuramente accusato la performance peggiore, perché ricordiamo è una delle banche più esposte proprio nei confronti dei titoli di Stato, dunque questo ha trascinato in basso le azioni della banca, che peraltro si è appena ricapitalizzata, meno 10,24%, comunque è in buona compagnia anche guardando le principali banche. Intesa San Paolo ha lasciato sul parterre oltre il 6%, Unicredit il 7,12%. Sì, e dicevo, nonostante le varie dichiarazioni, insomma, il giudizio del mercato è netto. Per quello che riguarda invece l'euro, l'euro è poco mosso, quota 1,11,7 nei confronti del dollaro, quindi da questo punto di vista non ci sono grossissimi scostamenti. Tra i titoli anche il risparmio gestito ha perso, e ci mancherebbe, Mediolanum meno 7,26, citavamo, anche Azimut molto male, meno 4%, ha tenuto World Duty Free meno 0,50, Ansaldo STS meno 0,70, se vogliamo anche Pirelli perde poco, l'1,20, e anche Saipem meno 2,17%, Tenaris meno 2,40%. Resta con noi Eleonora che ho il traffico. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta dagli studi Radio 24 qui all'Expo di Milano nel padiglione Cibus. Allora, Eleonora Micheli, il commento oggi è veramente, non dico inutile, ma è già scritto, è già fatto. Vorrei solo citare il caso Telecom Italia e poi passare invece a chi gestisce il reddito fisso, perché anche su quello le tensioni non sono mancate. Telecom Italia. Telecom Italia fino, diciamo, a pochi minuti prima della chiusura delle contrattazioni reggeva abbastanza bene, ovviamente perdeva ma un po' meno rispetto al listino, poi alla fine è scivolata e ha chiuso in calo del 4,7%. Ovviamente in questo caso la tensione rimane molto alta, proprio nei giorni scorsi è stato annunciato ufficialmente che Vivendi non solo è entrata nel capitale dell'azienda di TLC impossessandosi della quota di Telefonica, ma ulteriormente acquistato azioni salendo complessivamente al 14,9% del capitale. Dunque a questo punto gli investitori si interrogano sulle strategie del gruppo francese e su cosa ha in mente appunto il gruppo francese per la società di telefonia. Allora, nel ringraziare la collega di Radio Coro di Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, vi do anche i migliori e i peggiori, e già, se volete, questo sarebbe sufficiente per capire la giornata, nel senso che i peggiori titoli in assoluto, non quelli del FTSE MIB, ma di tutta Piazza Affari, sono quelli che abbiamo già citato, cioè Monte dei Paschi meno 10,20, UBI Banca meno 7,95, Pop Milano meno 7,91, poi c'è Meteorius Capital meno 7,50, Sogefi meno 7,30, di positivo Caleffi più 9,60, Enertronica più 5, Tech Value più 3,92%. Dicevo che oltre al fronte azionario, in attesa di sapere qual è il dato complessivo sul calo di capitalizzazione di borsa, c'è tutto il fronte del reddito fisso, ossia titoli di Stato e quindi spread e rendimenti. Dottor Angelo Drusiani, che da sempre, da quando insomma esiste Radio 24, interviene sui temi del reddito fisso ed è attualmente consulente per Banca Albertini Siz. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Detta così sembra quasi che le venga solo quando ci sono le sfighe, purtroppo insomma non è distante dal vero. Allora, Drusiani, lo spread adesso abbiamo visto oscillare tra 200 punti, 150 punti, poi 160, ma insomma la domanda è molto semplice perché la pongono tutti gli ascoltatori: che cosa rischiamo noi sul fronte dei titoli di reddito fisso? Non penso che l'Italia rischi di essere la nuova Grecia, perché comunque la situazione del debito italiano, per quanto sia molto elevato il rapporto tra debito e PIL, è sotto controllo al momento. I mercati giudicano che il debito italiano sia sostenibile, come lo è anche quello della Spagna. L'unico debito che è considerato, non dico a rischio, però molto vicino a una possibilità di rischio, è il debito portoghese, che però al momento non rischia nulla neppure lui. Quindi da questo punto di vista non credo ci siano da mettere in mostra dei timori sull'andamento del debito pubblico italiano. Certo è che l'effetto contagio è inevitabile, perché siamo in un mercato globale, in più siamo in area euro, che è un'area abbastanza piccola e limitata, quindi se va male il debito greco, se succede questa situazione a livello di attese negative sul debito greco, è chiaro che tutti gli altri debiti ne risentono. Senta, ma il ragionamento che fa il mercato, allora, qual è pura speculazione? Perché alcuni scrivono, sì, ma tanto sono gli algoritmi, le sale operative hanno degli algoritmi, in automatico vai a vendere oltre un certo tipo di calo sui titoli. Sì, ma anche no, nel senso che a noi sembra che, è vero che Milano ha perso più di altri per i titoli di Stato presenti nelle banche italiane, però vorrei capire, Dusiani, qual è il ragionamento del mercato, perché vedere lo spread muoversi, i rendimenti e penalizzare tutti i titoli bancari solo perché hanno in pancia titoli di Stato italiani un po' ci preoccupa. Le chiedo ancora un po' di pazienza perché ho il GR24 e poi torniamo in diretta e mi dà la risposta. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante e ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Focus Economia. Sweat 18 e 7 minuti, di nuovo in diretta dal studio di Radio 24 qui all'Expo di Milano nel padiglione Cibus. Allora, dottor Dusiani, prima del GR24 le avevo chiesto se è vero, come sentiamo ripetere anche oggi dal ministro Padoan, che non c'è rischio contagio sul debito italiano, anche lei ricordava che è un caso molto diverso, perché si va a vendere in maniera così pesante le banche italiane solo perché hanno in pancia titoli di Stato italiani? Da un lato perché sicuramente c'è, come capita molto spesso in questi casi, la ricerca di sicurezza, tant'è vero che mentre i rendimenti italiani, spagnoli e degli altri paesi sono saliti in misura abbastanza consistente, il rendimento del titolo tedesco si è spostato solo marginalmente. Questo perché? Perché a fronte delle vendite dei titoli di altri paesi, i cosiddetti PIX, gli acquisti sono stati orientati verso il titolo tedesco che dà maggiore sicurezza. Quindi da questo punto di vista è vero, c'è una componente speculativa importante, peraltro poi i mercati finanziari hanno una componente speculativa importante da sempre, quindi a prescindere dalle giornate tipo quelle di oggi, ma quelle di oggi in modo particolare. Ma c'è anche una scelta di fondo da parte degli investitori che nei momenti di difficoltà e di crisi preferiscono rendimenti molto molto bassi, sebbene sono saliti dai minimi dei rendimenti decennali di un paio di mesi fa, ai rendimenti teoricamente elevati ma che espongono a un rischio di caduta maggiore. Lei che scenario prevede? Insomma, quando fa consulenza in questo momento, perché a noi arrivano messaggi di ogni tipo, non riesco nemmeno a leggerli oggi, tanti sono. Però insomma, nella peggiore delle ipotesi, quindi non si fa nulla domani, domani sera praticamente la Grecia risulta insolvente per una rata da 1,6 miliardi che deve come somma di 3 tranche al Fondo Monetario Internazionale. Il referendum dovesse andare male, lei insomma come si sta posizionando come operatore? Dal punto di vista della scelta di composizione del portafoglio, gli investimenti sono su titoli abbastanza brevi, ancorché non forieri di rendimento, perché è chiaro che in questa fase i rendimenti a breve rimangono ancora rendimenti molto molto bassi. Io però sono abbastanza convinto che si possa arrivare ad un accordo entro domani, perché poi una situazione di questo tipo mette davvero a repentaglio l'intera prospettiva dell'euro nel suo complesso. Però se, giustamente rispondendo alla sua domanda, se tutto ciò dovesse accadere, è evidente che avremo ancora, io presumo, almeno una decina di sedute abbastanza turbolenti con quotazione in netto calo. Oggi il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,34, non c'è da sorprendersi che possa salire verso i 3,325 se tutto questo accadesse, cioè se la Grecia non paga, se abbiamo la situazione di referendum negativo. Quindi cioè sicuramente... Nella peggiore delle ipotesi, le dice, il nostro BTP a 10 anni potrebbe arrivare a salire a 3,330, perché sia un punto in più lo potrebbe tranquillamente prendere se davvero tutto, tutta questa catastrofe. Cioè, che vuol dire quasi 300 punti di spread, adesso vado a memoria. Grosso modo potremmo salire sicuramente sui 2,50-2,60, perché da quel punto di vista... Secondo me sarebbe comunque una fase temporanea, perché poi i rendimenti tornerebbero a scendere, i differenziali pure, però non mi sorprenderebbe che nella peggiore delle ipotesi potremmo assistere ad un rialzo così cospicuo del differenziale di rendimento. Tenga conto che oggi allora, è arrivato fino a quota 200, poi è sceso. A 200, si poi è sceso 150, 160. Allora, per essere proprio corretti, è chiaro che anche dovesse arrivare nel peggiore dei scenari, quello che dovesse accadere, quello che prevede lei, cioè uno spread a 300-330, sarebbe il doppio di quello a cui ci eravamo abituati negli ultimi mesi, ma ben distante dai 500 e passa punti del famoso novembre 2011 e gennaio-febbraio 2012. Questo per ricordarci che siamo stati messi anche peggio. Nessuno però vuole arrivare a tanto. No, grazie per ora, Angelo Drusiani. Vedo adesso il dato: 287 miliardi bruciati oggi di capitalizzazione in borsa. Siccome il debito greco complessivamente di 322, praticamente in Europa oggi il valore bruciati non vuol dire che sono bruciati per sempre, perché se la borsa recupera nelle prossime sedute si ricapitalizza. Però le vendite di oggi valgono nel complesso quasi 20-30 miliardi in meno di tutto il debito greco, tutto, non quello che la Grecia deve adesso pagare, i 322 miliardi, che è il totale del debito greco, pari al 180% del PIL di quel paese. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Se il popolo greco dice sì alle proposte che noi, cioè le tre istituzioni con l'accordo del presidente dell'Eurogruppo, abbiamo pubblicato ieri, tanto meglio. Anche se il governo greco, contro la verità e contro lo svolgimento esatto delle cose, dovesse presentare al voto della popolazione greca le proposte delle tre istituzioni che noi volevamo discutere all'Eurogruppo di sabato scorso con gli amici greci, io chiederò al popolo greco di votare sì, perché dal voto del popolo greco emergerà un segnale per la Grecia e per gli altri paesi dell'Eurozona. Se il popolo greco, responsabile e consapevole del ruolo nazionale ed europeo che svolge, vota sì, il messaggio che arriverà agli altri paesi dell'Eurozona, all'Europa e alla società globale sarà che la Grecia vuole rimanere parte della zona euro e dell'Unione Europea. Non sono stato informato dal presidente Tsipras nel corso dell'incontro di 20 ore che abbiamo avuto tra mercoledì e venerdì della sua decisione di ricorrere a un referendum. Non lo biasimo per aver indetto il referendum. La democrazia greca ha tutto il diritto di affrontare il problema attraverso questo strumento. Ma la cosa mi ha colto di sorpresa. Da allora ho avuto modo di parlare con Tsipras. Gli ho esposto il mio disappunto e lui ha tentato di mostrarmi le sue ragioni. Non credo sia saggio da parte mia biasimare il governo greco in questo momento, ma è stata una delusione, sia sul piano politico che su quello umano. Ho tentato tutto il possibile e loro lo sanno. Oh, Così parlò ha parlato oggi il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Dura la dichiarazione, mi sento tradito, ho fatto il possibile. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. La sentiamo un po' bassa, se mi alzate il volume, e ringrazio anche l'economista, nonché editorialista del Sole 24 Ore, Luigi Zingales, che insegna economia e finanza all'Università di Chicago. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Adriana Ceretelli, il tuo barometro come butta oggi? La domanda sembra retorica e pleonastica, però magari ci sorprendi. No, non vi sorprendo. Trovo che sia un quadro deprimente, il peggiore dei quadri, quello al quale speravo non arrivassimo. Io non sono tra quelle che, come oggi Juncker, scarica tutte le colpe sulla Grecia. Secondo me il negoziato è stato condotto con una flessibilità finale sia da parte di Tsipras che da parte dei creditori, i quali però appena Tsipras ha mostrato quel minimo di flessibilità non hanno trovato di meglio che continuare a chiedere. Tra l'altro, cioè, intestardendosi su tassi dell'IVA del 13-23 sugli alberghi, ma cioè che gliene frega, freguglie, stupidaggini rispetto alla posta in gioco che è il principio dell'integrità e dell'irreversibilità dell'euro. Non lo so, io trovo che la risposta che hanno dato i mercati oggi all'Europa sia una lezione salutare per farla riflettere, perché certamente la Grecia ha le sue colpe, non sono certo qui ad assolvere la Grecia. Però voglio dire, la Grecia è un'entità marginale economicamente dentro l'Eurozona, non si può prendere un socio di minoranza dell'ordine dell'1-2% e lasciargli in mano il destino dell'euro e dell'Europa. È assurdo, è irresponsabile. Certo Tsipras è irresponsabile, ma è molto più irresponsabile l'Europa, che dovrebbe essere responsabile, secondo me. Quindi allora, se ti dicessi come finirà, non lo so, perché è una situazione talmente ingarbugliata che è davvero difficile vedere prima se Tsipras farà una richiesta di colloqui. Tutti glieli offrono oggi, ma sabato tutti gli hanno chiuso la porta in faccia, e capisco che uno fosse furente e quindi facesse così, però diciamo sono stati molto molto duri sabato. Adesso sono diventati più morbidi, perché prima teorizzavano che i mercati non avrebbero fatto una piega, visto che i mercati hanno fatto più di una piega, adesso cercano di correre ai ripari, e tra l'altro in una maniera abbastanza irrituale Juncker, come dire, entra a gamba tesa nella dinamica democratica della Grecia per invitare appunto a votare, diciamo, sì, a votare bene. Beh, conoscendo la popolarità che Juncker non ha mai fatto. No, dico, conoscendo la proprietà che, di cui gode Juncker, questo è un grosso aiuto al no, nel senso che quando uno come Juncker ti dice vota sì, fa venire no, voglia di votare no. Allora, questo non lo so, ma è una battuta mia. È talmente tragico che Professor Zingales, dopo il traffico, però insomma, la descrizione che fa Adriana Ceretelli, che io ho battezzato il barometro Ceretelli, il barometro di questa crisi, io vorrei riassumerla così. Per carità, il governo Tsipras, che si è insediato a gennaio, quindi non ha le colpe degli anni precedenti, si sarà comportato anche come un bambino, puntando i piedi, con la sorpresa nel finale del referendum. Però il problema qui è che sono mancati gli adulti, cioè anche la controparte si è comportata in maniera un po' naif, un po' infantile, insistendo sulle la riduzione delle tre aliquote, cosa ne frega loro, addirittura alcuni sono messi a commentare il tipo di manovra. A uno deve interessare che la Grecia presenti un piano per ripagare i suoi creditori. Come lo fa? Poi sono in qualche modo non solo fatti suoi, ma anche la libertà democratica di questo paese. Abbiamo visto in realtà un asilo, sicuramente Tsipras e Varoufakis, con un atteggiamento delle volte appunto un po' immaturo, passatemi il termine, ma anche da parte europea tutta questa maturità, questi adulti che sappiano tenere i nervi saldi, dire va bene, tu ti comporti come un bambino, ma io non ho la tua età, non mi metto al tuo livello, io devo pensare all'Europa nel suo complesso e non posso rischiare per dei capricci greci di darti ragione e mandare tutto a gambe all'aria. Ecco, noi di adulti ne abbiamo visti pochi, vorrei sapere la sua opinione dopo il traffico. Focus Economia. Slaves and the sons of former slaves, one day, one day, one day. Allora, professor Zingales, se ne sono visti o no qui di adulti? Ma io più che accusare Tizio Cari di non comportarsi da adulto, mi preoccupo del sistema nel suo complesso. Cioè, quando pensiamo che tante persone si comportino in maniera sbagliata, significa che i meccanismi istituzionali non sono quelli giusti. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una unione monetaria che non ha una autorità e una legittimità politica, e questo crea dei problemi enormi a cui non sappiamo, l'Europa non ha saputo dare una risposta. E secondo me o c'è una riforma profonda oppure il problema si riproporrà. Cioè, non guardiamo solo al problema Grecia. Grecia è semplicemente la cartina di tornasole, il canarino nella miniera che ci sta dicendo che ci sono dei grossi problemi. Devo dire che molti ascoltatori, oltre a definire cioccolatai, vabbè, insomma, chi ha gestito queste trattative, fanno notare che il peso economico della Grecia, l'abbiamo detto molte volte, è l'1,8% del PIL europeo, ma il peso politico, che è un po' quello che lei stava dicendo, Zingales, se ho ben capito, beh, è ampiamente superiore, perché mette a nudo un insieme di difficoltà, di meccanismi che non riescono a girare, di trattative che, posso dire a tutta Adriana Ceretelli, c'è stato un momento in cui la trattativa era Atene-Berlino, per cui saltando completamente ogni meccanismo, ogni, si direbbe, governance europea, per cui si era capito che tanto bastava mettere d'accordo Angela Merkel con Tsipras. Possiamo dire che essere arrivati a questo punto, cioè a 24 ore dalla scadenza, ancora sperare che si arrivi a un accordo nel finale, è comunque un caporetto per l'Europa, per l'area euro? Sicuramente. Adriana? Ah, sono io. Lo è di sicuro un caporetto, ma è già stato essere arrivati a questo colpo di testa di Tsipras, la caporetto dell'Europa. Però io credo, ed è verissimo, sono d'accordo che l'Eurozona dovrebbe fare il salto verso l'unione economica e soprattutto quella politica. Ma io credo, tra l'altro, che proprio l'episodio greco sarà una enorme zavorra quando si tratterà di provare a rafforzare la governance dell'euro, perché il modo come è stata condotta la trattativa con la Grecia, secondo me, non promette bene verso l'idea di affidare ancora più sovranità nazionale a un'Europa che in definitiva non la sa gestire in pool, perché non sa, come dire, prendere le decisioni con la flessibilità necessaria di un'unione monetaria fatta di 18 paesi. Quindi non si può ragionare solo e soltanto esclusivamente con un modello soprattutto buono per tutte le stagioni. Cioè, voglio dire, essere ancorati ai criteri di Maastricht, al famoso 3%, persino il Fondo Monetario lo ripete in continuazione. Insomma, il mondo cambia, anche i parametri di riferimento dovrebbero essere più flessibili. Anche, voglio dire, la globalizzazione ha cambiato i parametri dell'economia rispetto a quando è stata concepita Maastricht, ed è questo secondo me il punto. La Grecia sarà un'eredità pesantissima da gestire, proprio perché l'Europa ha dimostrato la propria incapacità di gestire questo problema. E qui allora dico a chi ci chiede cosa capiterà domani, non lo sappiamo, nessuno poteva immaginare che Tsipras avrebbe chiamato il referendum venerdì sera e che la risposta dell'Europa sarebbe stata così piccata, per quello dico un po' immatura, nel senso che è ovvio che ti secchi, è ovvio che lo manderesti a quel paese, ma quando tu stai trattando per un'area economica come quella dell'euro devi avere anche maggiore freddezza. Però, e quindi nessuno sa se domani si troverà un accordo nel finale, stiamo commentando il danno che è già stato fatto. Però, professor Zingales, da questo poi chiederò a Zingales anche un'altra cosa, perché la tua descrizione, Adriana, è di una governance europea, cioè di politici europei, che non sono politici. Molti ci stanno scrivendo, questo è il risultato della gestione dei tecnocrati, ma non è che sia mancata una dimensione politica in questa Europa? No, c'è stata, tanto è vero che la Merkel ha cercato di mediare, ma proprio all'ultimo vertice ha nel bel mezzo deciso basta mediazione politica. Ma perché? Perché aveva la sua CDU in casa che cominciava a rivoltarsi contro, ma ben oltre la fronda fisiologica che lei ha sempre, che è intorno ai 30 deputati e qualcosa di più, e quindi, visto la situazione più precaria che aveva Berlino, ha lasciato in mano al falco Schäuble il compito di, come dire, in sostanza di affidarsi ai tecnici, perché lì nell'ultima fase certamente la mediazione politica è mancata proprio perché ognuno ha i suoi problemi in casa. Voglio dire, Tsipras ce l'aveva con Syriza e di lì il suo colpo di testa, e la Merkel si è ritirata perché a sua volta aveva il suo problema. Gli altri contano, perché intendiamoci, la Merkel non è che negozia solo per lei, negozia per tutti i nordici, quelli che hanno le posizioni simili alle sue, però il problema è, finché media si può sperare di arrivare a qualcosa, quando si ritira e dice beh, se la vede l'Eurogruppo abbiamo visto dove siamo arrivati. A me paradossalmente, come scrivono alcuni ascoltatori, sembra che l'unica dimensione veramente politica, e anche questo è un altro schiaffo a questa area euro, l'abbia avuta la Casa Bianca. Cioè l'unico, diciamo, presa di posizione di dire attenzione, non potete mandare a quel paese non solo l'euro ma l'intera ripresa economica in atto, e con l'aggiunta di spingere la Grecia verso la Russia di Putin o verso la Cina, che per una cavolata del genere, o per un problema, non è una cavolata, ma risibile, l'unica dimensione politica, lettura politica, è arrivata da oltreoceano, Adriana. Sì, è oltreoceano e persino dalla Cina, dal presidente cinese che oggi è a Bruxelles. Perché e persino c'è dalla incontro. Cina, hai ragione. Cioè, il presidente cinese, prima di sbarcare oggi a Bruxelles, ha lanciato da Pechino un appello alla Grecia, all'Eurozona, per appunto perché non crei, ha detto a un certo punto, perché non si lanci in avventure destabilizzanti eccetera per la ripresa mondiale, anche con impatti sulla, appunto, sull'economia globale eccetera eccetera. Quindi cioè tutto il mondo vede i rischi, invece l'Eurozona e in particolare chi la conduce, la sua politica, tende a vedere solo quel particolare, perché per certi versi la Grecia è un particolare, certo. E che impedisce di vedere il generale. Detto questo, io non voglio sminuire il valore della Grecia, anche politico, perché naturalmente chi negozia è preoccupato che la Grecia possa diventare un esempio per i vari Podemos, gli spagnoli Stelle, eccetera, eccetera. Gli quindi, per carità, come dicevo prima, quando certo. si negozia 18 non è così semplice. Però, anche tenuto conto di tutto questo, non si può mandare, secondo me, in crisi l'euro per una questione, insomma... non dico marginale, ma comunque gestibile, non è un problema. Adriana, nel chiudere, dimmi solo una cosa, domani arriverà in extremis secondo te l'accordo? Non lo so, perché l'atmosfera è molto molto brutta, e diciamo il modo con cui è stata condotta la trattativa è stato anche un modo ambiguo, perché oramai, e non c'è dubbio che i greci in 5 mesi hanno avuto modo di esasperare i loro interlocutori, molti degli interlocutori sono convinti purtroppo che Grexit è meglio che tenere la Grecia dentro. E devo dire che sabato a Bruxelles, ma tantissimi, compresi nei paesi mediterranei, compresi anche tra gli italiani, cioè gente che dice beh, alla fine semplifichiamo, fuori la Grecia, la zona diventerà più coesa. Adesso non voglio intrattenervi, sì. Io trovo che questo sarebbe un errore storico monumentale. Totale, sono che d'accordo. Pagheremmo, ma veramente, con la fine dell'Europa. Ma c'è tanta gente che ne è convinta, e non solo i tedeschi. Allora, sono d'accordo con te al 100%, non so se devo preoccuparmi, ma tant'è. Vediamo poi se questi geni degli euroburocrati cosa diranno oggi, dopo che la borsa appunto ha perso a Milano 5,17, a Francoforte il 3,50, così come a Parigi. Noi ci risentiamo domani. Grazie intanto a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, grazie anche a Luigi Zingale, c'è stato un problema di collegamento, lo riprenderemo domani. Adesso vi lascio sempre in diretta qui dal Cibus, dentro l'Expo di Milano, alla Zanzara. Focus Economia torna dalle 17 in poi domani in diretta dall'Expo di Milano. Intanto da Sebastiano Berisoni auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.